Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti. Ebbene, oggi parleremo di un argomento che sta così un po' sollecitando la critica un po' in tutto il mondo. Voglio partire, prima di andare avanti e raccontarvi cosa faremo, l'inizio di un articolo uscito sul Financial Times pochi giorni fa da Jensis Robinson, che è la critica, diciamo, vinicola di questo importante giornale, e dice: First organic, then biodynamic and now natural. Bene, questo tema organico, biodinamico, naturale, per quanto riguarda i vini, è un po' un tema che sta così nascendo e si sta propagando anche in Italia. Il fenomeno esiste da anni, però negli ultimi tempi ha avuto così, per così dire, un'accelerazione e un interesse maggiore. Bene, noi faremo ora un giro tra alcuni produttori, appunto, che si definiscono tali, con alcuni esperti, per vedere di capire cos'è questo mondo, cosa c'è dietro, quali sono le tecniche, se ci sono tecniche particolari. Non solo, ma sentiremo anche un filosofo che ci racconterà appunto perché questo mondo si fa riferimento a un noto filosofo che è Steiner. Allora cominciamo questo giro dal Veneto, cominciamo da un produttore che è Angiolino Maule dell'azienda La Biancara, ma è anche presidente di Vinnatur, un'associazione che raccoglie una serie di produttori appunto naturali. Numero verde 800 24 00 24 per chi volesse intervenire, 349 238 6666 per quanto riguarda i messaggi. Buongiorno Maule. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Lei è così presidente di un gruppo, cioè diciamo è stato quello che ha coinvolto un gruppo di produttori. Ecco, il vostro vino come lo definite? Il nostro vino naturale. Sì, certo. Il nostro vino naturale è l'espressione di un territorio, di un vitigno e di un uomo. Ecco, questo naturale che crea molti dibattiti su questo, tutti dicono beh, il vino è tutto naturale. Ma il vino è tutto sì naturale perché proviene dall'uva, però è troppo il vino convenzionale, chiamiamolo così, è troppo aiutato dalla chimica. Ecco. E allora non è più del tutto naturale, è prodotto dalla materia prima naturale che è l'uva, però aiutata con la chimica purtroppo. Ecco, naturale però, cioè vino naturale è una definizione che vi siete, come posso dire, vi siete dati, perché non esiste in, diciamo, sulla regolamentazione, sulle disciplinari, un vino naturale. Quindi come pensate di procedere, diciamo, andando avanti? Perché sempre più ci sarà necessità, forse, di definire questo vino. Ma per adesso, quello che continuo sempre a dire io, stiamo ancora costruendo le basi per costruire un castello, cioè stiamo costruendo le fondamenta ancora. Quando avremo costruito le fondamenta, avremo capito come si può fare un vino naturale che sia buono anche e che sia privo di difetti, perché purtroppo in questi ultimi anni siamo aggrediti per i piccoli difetti che possono nascere o esserci in un vino. Quando avremo messo a posto questi piccoli difetti e siamo nella strada giusta per arrivare per metterli a posto, allora potremo pensare di parlare di fare una legge, di legiferare, insomma, quello che abbiamo fatto. Ecco, benissimo, lei ha definito giustamente vino buono, ancora ci sono molti passi da fare in avanti, è vero, ci sono ancora sicuramente molti vini definiti tali che assolutamente sono da sistemare, ma io voglio porre questo quesito a Giovanni Bietti. Giovanni Bietti è un musicista, è un compositore, ma è stato forse il primo a fare così una guida ai vini naturali d'Italia, è uscito pochi giorni fa una seconda edizione con altre parti d'Italia. Allora Giovanni Bietti, voglio chiedere, Bietti, ma i vini che lei ha recensito in questa guida sono tutti buoni? Buongiorno intanto, guardi, il problema del vino naturale è esattamente la definizione della qualità, anzi potremmo dire che è il problema di tutti i vini. Diciamo una cosa certa, è che se un vino è lavorato naturalmente è più sano. Che sia più buono è esattamente l'oggetto della discussione. In effetti, diciamo, vogliamo essere più estremi. A rigore non esistono vini davvero naturali, cioè un prodotto che sia semplicemente frutto della natura. C'è sempre l'intervento dell'uomo, quindi tutti i vini, e vorrei dire per fortuna, sono dei prodotti culturali, sono trasformazione di elementi naturali da parte dell'uomo. Però è sicuramente possibile lavorare perlomeno in termini quantitativi, cioè ragionare in termini quantitativi, dal momento che per legge è possibile aggiungere un'enorme quantità di sostanze, è possibile aggiungere, le più semplici sono i lieviti, gli enzimi, i tannini, insomma si può aggiungere la gomma arabica al mosto, tanto per capirci. Ecco, allora diciamo che un criterio quantitativo per definire la naturalità di un vino è che tanti meno sono gli interventi, diciamo, invasivi sull'uva di partenza, e tanto più il vino è naturale. Lo stesso naturalmente vale per la vigna, cioè tanti meno sono trattamenti sistemici, pesticidi, diserbanti, interventi chimici, e maggiore è la naturalità della viticoltura. E ripeto, questo naturalmente non ha in maniera automatica a che fare con la qualità, cioè può darsi che un vino prodotto nel modo più naturale possibile sia più sano, semplicemente perché ha meno additivi. Questo però non vuol dire che sia necessariamente più buono. E adesso lancio anche un tema di cui sicuramente qualcuno parlerà questa mattina, che è il discorso, molti lo sanno ma non è molto affrontato, è che il vino è l'unico prodotto alimentare confezionato per cui non sia obbligatorio indicare in etichetta gli ingredienti. Bene, grazie a Giovanni Bietti. Io ringrazio Maule, però le voglio ricordare per Maule che la sua associazione organizza dal 22 al 24 a Taranto una manifestazione, una rassegna di vini, appunto Vin Nature, vini naturali. Sentiamo un radioascoltatore, Sergio da Cremona. Buongiorno Sergio. Buongiorno a lei. Senta, io ho letto poco tempo fa che la quantità di solfiti nel vino può far male. Allora io ho visto su tutte le bottiglie, anche al supermercato, la presenza di solfiti c'è dappertutto, però non è mai indicata la percentuale. Adesso io non mi ricordo sull'articolo la quantità di solfiti che non deve essere superata, adesso non me lo ricordo. Però comunque i solfiti ci sono dentro dappertutto. La mia domanda era, ma i solfiti fanno male o non fanno male? Bene, grazie Sergio, domanda molto interessante che sapevo che sarebbe emersa durante questa trasmissione. Guardi, abbiamo con noi un personaggio importante di questo mondo, abbiamo Sandro Sargiorgi che è l'editore della rivista Portos, uno dei primi in Italia a occuparsi appunto di questi vini e a trattarli. E allora buongiorno a Sandro Sargiorgi. Salve. Vuoi trattare tu il problema dei solfiti, che credo sia veramente importante? Sì, infatti proprio perché sia Maule sia Bietti hanno dimenticato forse l'elemento fondamentale che distingue il vino naturale dal resto del vino e in generale anche nell'universo dell'alimentazione, che è la digeribilità. E di conseguenza un attento uso dei solfiti riduce moltissimo l'aspetto negativo del vino. Ora, bisogna partire dalla considerazione del vino buono. Però il vino buono ha tre aspetti fondamentali. Questo non fa differenza tra vino convenzionale o vino naturale. Il vino buono ha tre aspetti fondamentali. Il primo è la restituzione del luogo. È il luogo che fa il vino e non il vitigno. Il secondo è la sintonia col cibo, che è la vera vocazione di ogni vino. Da sempre, da quando è nato il vino, ha la vocazione di accompagnare il cibo, vocazione che si è poi affinata nei secoli. E il terzo elemento è la digeribilità. Ora, un vino per essere così deve essere naturale, e quindi il vino buono ha questi tre aspetti di partenza. L'indicazione della quantità dei solfiti, che è una cosa che noi chiediamo da molti anni, è molto difficile da fare sulle etichette. Bisognerebbe mettere per esempio quanti solfiti si mettono all'inizio, perché la solforosa si modifica nel tempo in bottiglia. Però c'è una soglia, chiamiamola media, sotto la quale si può stare per evitare di provocare danni alla salute delle persone. Non stiamo parlando di danni irreversibili, per fortuna, stiamo parlando di mal di testa, problemi digestivi e altri effetti collaterali. Certo. Però tenendo conto che per l'uso che se ne dovrebbe fare correttamente, perché la solforosa è un importante sostegno dal punto di vista della gestione della materia prima quando viene fatta viaggiare, quando viene conservata, la quantità che serve per questo è ampiamente al di sotto di quel limite sostenibile dall'organismo. La cosa importante, per dare un consiglio al nostro amico, è non andare a comprare il vino al supermercato, perché nella stragrande maggioranza dei casi i vini vengono conservati proprio grazie a dosi molto elevate di solforosa. Bene, ti interrompo, poi torneremo su altri argomenti. Sentiamo un altro radioascoltatore, Alberto da Perugia. Buongiorno Alberto. Sì, buongiorno. Io ho un paio di domande. Una era conseguenza dell'ascoltatore precedente e volevo sapere come si fa a essere tutelati sull'aspetto della salute, visto che in passato ci sono stati tanti scandali probabilmente isolati nel contesto di quanta produzione c'è in Italia e nel mondo, però non si sa mai quello che si va a bere esattamente. E un'altra cosa che volevo chiedere è questa, io sono umbro, chiamo la Perugia, e ho sentito recentemente in televisione un coltivatore che ha detto che ci sono delle possibilità di fare dello spumante, perché c'è una terra che risponde bene a questi requisiti. Ora io mi chiedo, è tanto importante la terra per un vitigno? Bene, grazie a Alberto da Perugia. Ora abbiamo con noi anche da molto lontano Luca Gargano. Buongiorno Gargano. Gargano è il distributore dei vini AAA, è stato uno dei primi in Italia così a distribuire questi vini, non solo italiani ma anche francesi. E io a Luca chiedo un po' qual è la risposta del mercato a questi vini, perché forse lui è uno dei pochi che può capire se c'è una risposta, se questi vini vengono compresi e quindi vengono anche acquistati e vengono bevuti. Ciao Davide. Buongiorno. Hai sentito la mia domanda? Sì, l'ho sentita. Innanzitutto io ho creato il protocollo del movimento AAA, che è stato il primo protocollo che divideva, un po' faceva la frontiera tra i vini veri e i vini permessi dalle leggi attuali, ma che hanno poco a che vedere con il vino. Negli ultimi anni, negli ultimi 2 o 3 anni, c'è un bisogno da parte delle persone, per non chiamarle consumatori, che tutte le cose, che tutti i prodotti mantengano le promesse. Oggi purtroppo, come sai, sono rimasti i nomi dei prodotti, ma le leggi permettono di farli in modo industriale. Quindi sta crescendo molto. E anche l'Europa negli ultimi 2 o 3 anni si è svegliata. Nell'ultimo anno a Parigi abbiamo una pullulare di nuovi punti vendita che vendono vino vero e anche cibo vero. Bene, rimani con noi anche tu. Sentiamo Matteo dalla provincia di Verona, radioascoltatore. Buongiorno Matteo. Sì, buongiorno, Matteo Fongaro da Verona. Sì. Io, ascoltando la radio, volevo precisare una cosa. Io ho avuto la fortuna di poter portare avanti l'azienda di famiglia insieme al fratello, che dall'85 spumantizziamo un vitigno autoctono, il Durello, d'agricoltura biologica, diciamo. Ultimamente in tutti i posti dove andiamo a proporlo non ritengo più così opportuno far presente che è biologico, non perché non ci credo, è perché ormai la parola biologico o d'agricoltura biologica o naturale è venuta un po' di moda. Questo cosa comporta? Comporta che secondo me la gente tende a dire che un prodotto è biologico, che è naturale, ancora prima di far assaggiare il proprio prodotto, diciamo. Io ritengo che la cosa principale è valorizzare un territorio, un terreno, un vitigno, una lavorazione. Quando dopo il prodotto è ritenuto buono, di qualità, sarebbe giusto dire è anche di agricoltura biologica. Bene, grazie, perché è molto interessante questa sua osservazione. La rivolgo a Gargano, perché appunto essendo sul mercato dalla mattina alla sera può così dare una risposta a questo oppure fare delle considerazioni. Luca? Sì, ma io dico questo. Un fiore vero in un prato in primavera lo possiamo confrontare con un fiore di plastica venduto in un supermercato? Questa è la risposta. Cioè, come si può pensare di fare un prodotto buono usando dei veleni? Quindi è giusto parlare anche di biologico. Poi nel vino, a dire il vero, la cosa più importante sono i lieviti, che essendo sconosciuti è difficile da capire, però un vino deve essere fatto con i propri lieviti, con i lieviti della sua uva. Quindi questa è la partenza. Diciamo che biologico dovrebbe essere la base per chiamare vino vino, un vino fatto senza chimica nel vigneto, con i suoi lieviti, non cambiando i parametri chimico-fisici in cantina, con poca solforosa. Questo è un vino. Poi ci sono i vini molto buoni che vengono a terroir particolari. Bene, grazie Luca, ti lasciamo al tuo viaggio. Grazie. Io ora volevo leggere un sms perché lo rivolgo poi a San Giorgi. Da sempre il vino è modificato dall'uomo. Pensiamo a Grecia e ai Romani che aggiungevano miele, resine e spezie. Il vino non è solo spermuta d'uva. Tu cosa ne pensi, Sandro? Infatti il vino non è spermuta d'uva, per fortuna. Ci mancherebbe pure, le uve non cadono da sole, non vanno in cantina da sole, il vino è una forma artistica dotata di questo slancio della natura che l'uomo ha saputo, come dire, custodire, no? Molto bene, ha saputo inventare e custodire molto bene. Ora, il punto è questo: qual è il confine da non superare? E questo è il punto fondamentale. Io sentivo prima gli ascoltatori, allora il signore Umbro diceva come ci si fa a proteggere? Beh, intanto cominciamo a vedere quali sono i prezzi che sono impossibili da rispettare, prima di tutto. Insomma, quando uno vede delle bottiglie con un prezzo impossibile, cioè improbabile perché è troppo basso, deve stare lontano. Poi i produttori naturalmente avrebbero da fare molto perché dovrebbero perseguire una certificazione. Maule dice che stanno aspettando di diventare un pochettino più puliti, un po' meno difettosi. Beh, insomma, se la varietà è dovuta anche a questa imprevedibilità, a questa irregolarità espressiva, io non credo che arriveranno mai a mettersi d'accordo, probabilmente devono farlo prima. E poi dalla parte del consumatore, che è la nostra controparte, c'è sempre la richiesta di essere attento, di essere consapevoli. Insomma, non possiamo pensare che siano gli altri che ci nutrono, ma siamo noi che dobbiamo cercare maggiore qualità, maggiore pulizia. Insomma, è vero, il biologico e la certificazione biologica non è una garanzia, perché molti ci si stanno avvicinando e vedrete presto come anche alla parola naturale l'industria saprà fare la sua parte. Però proprio per questo motivo il consumatore si deve armare di maggiore sensibilità, di maggiore attenzione, e non deve basarsi soltanto su quello che ci sarà scritto sulle etichette. Bene, grazie Sandro San Giorgi per questo chiaro intervento, e hai risposto anche un SMS che mi diceva oggi qual è lo standard per definire un vino naturale. Numero verde 800 24 0024, messaggi SMS 349 238 6666. Sentiamo Michele da Perugia, velocemente Michele. Buongiorno, grazie dell'opportunità che mi avete dato per poter intervenire. Io ho appena discusso una tesi su vino convenzionale, vino biologico, vino biodinamico. Io nasco come agronomo e mi sono laureato in enologia proprio ad aprile. Il discorso è proprio questo: io reputo che oggi ci sia da fare tanta chiarezza riguardo del vino naturale, in quanto viene sfruttato soprattutto per la commercializzazione del vino. Il vino non è naturale, non può essere mai naturale, perché se noi prendiamo la naturalità del mosto ci troviamo ad avere poi un vino e poi successivamente un aceto. Questo è il processo naturale. L'intervento dell'uomo è indispensabile. Allora credo che di fatto il vino sia anche un prodotto edonistico di grande piacere e non è necessario alla vita dell'uomo, e questo potrebbe in qualche maniera... Pronto? Sì, ma l'ascoltiamo. Finisca l'intervento, sì. Prego. Dicevo, potrebbe in qualche maniera non essere necessaria la vita dell'uomo. Il vino deve essere assolutamente buono, perché è veramente un piacere poter degustare un buon vino. E a me sinceramente non è che sia particolarmente interessante dire bevo questo vino perché è naturale. Certo. E poi alla fine mi trovo non è buono. Un bicchiere che non Bene. È assolutamente... Grazie Michele, perché lei ha posto un altro argomento molto intrigante sul banco della discussione. Diana della provincia di Milano, una radioascoltatrice. Buongiorno Diana. Sì, buongiorno. Proprio sui solfiti, io volevo dire questo. I disciplinari della vinificazione biologica è vero che prevedono delle quantità minime di anidride solforosa di solfiti, però mi risulta, cosa che io tra l'altro non sapevo e mi sono stupita nell'apprenderlo, però mi risulta che sia possibile non utilizzare l'anidride solforosa, e mi risulta addirittura, purtroppo io adesso non mi ricordo i nomi dei vinificatori, che ci siano vini interamente prodotti senza il ricorso all'anidride. Bene, sapevo che prima o poi questa domanda sarebbe arrivata. Voglio specificare che dal 2004 la legge impone di dichiarare l'utilizzo dei solfiti in etichetta, senza però specificarne la quantità. E allora io ho con noi un enologo, nonché validissimo produttore di vino, Salvo Foti. Buongiorno Foti. Buongiorno a voi. Ha sentito questa domanda sul solfito? Desidero la risposta. Sì, lei cosa ne pensa? Ma allora, tutto dipende come si lavora, il sistema in cui si lavora. Io, la mia esperienza personale è questa. Faccio due vini d'annata, un bianco e un rosato senza solforosa. Ovviamente ho fatto le mie prove prima e ho visto se questo era possibile. Essendo dei vini di una zona dell'Etna, quindi provengono questi due da una zona sui 1200-1300 metri, e quindi vi sono delle acidità molto importanti. L'acidità in se stesso è una specie di conservante del vino, quindi permette l'utilizzo, anzi la non utilizzo di solforosa in questi casi. Allora si può dire che in questo particolare è possibile. Possibile sempre il fatto che noi manteniamo quelle caratteristiche organettiche del vino che devono essere buone. Cioè, voglio dire, non posso fare un vino senza solforosa che poi fa puzza perché ha avuto dei problemi proprio per questo motivo. Quindi devo essere sicuro che quello che arriva al consumatore, quello che devo bere io, alla fine è sempre un vino da ottime caratteristiche organolettiche. Certo. Così io posso giustificarlo. Bene, rimanga con noi, leggo un SMS. Quello che è molto importante sono anche i controlli di temperatura. Molti di quelli che dicono di non usare solfiti poi sparano il vino a bassa temperatura per stabilizzarlo e lo ammazzano. Andrea. Allora io rivolgo, diciamo, questa considerazione a Stanislao Radicon, un altro importante produttore friulano. Salve Radicon. Ciao, ciao Daniele. Hai sentito questa diciamo SMS che ho letto? Sì, boh, sono queste SMS secondo me estemporanee che qualcuno le mette in giro, che sì, non hanno fondamenta secondo me. La temperatura in fermentazione è una cosa che insomma l'abbiamo sempre fatto. Noi fermentiamo i vini sulle bucce che arrivano dai 30 ai 34 gradi anche in certe annate, e facciamo tutto senza solfiti, senza solforosa, che va addirittura in bottiglia senza solforosa, quindi non c'è secondo me un collegamento fra queste cose tra per quanto riguarda la temperatura, ecco. Bene, sentiamo un radioascoltatore, Giuseppe della provincia di Verona. Buongiorno Giuseppe. Sì, buongiorno. Io volevo raccontare questo episodio. Noi siamo coltivatori biologici dal 1993. Un giorno ho incontrato Veronelli e gli ho chiesto, stante queste difficoltà della produzione di vini dell'agricoltura biologica, e gli ho detto: ma come si può differenziare un giudizio tra un vino che proviene dall'agricoltura biologica e un vino tradizionale? E lui mi ha detto: caro Trabucchi, no, dice, il vino buono deve essere il vino buono, non puoi distinguere, quindi devi sforzarti per fare il vino buono anche dell'agricoltura biologica. E credo che le esperienze di questi anni abbiano aiutato tutti gli agricoltori a viticoltura biologica ad arrivare alla qualità. Qual è quella straqualità? Secondo me è quello che diceva San Giorgi, cioè il vino organico deve essere quel vino che entra nel corpo, che entra nella mente e diventa corpo e mente, cioè che non segnala una differenza tra la fisicità, l'organicità del tuo corpo e il prodotto che entra nel tuo fisico. E devo dire che uno degli elementi fondamentali per questo è proprio il non uso di prodotti sistemici. Questo perché la pianta deve difendersi da sola, e quindi difendendosi da sola la pianta riesce a produrre un'uva che è veramente naturale, cioè che è frutto della sua attività personale, della fatica che la pianta stessa fa, e quindi ti dà un frutto concentrato, un frutto che veramente dà un vino ricco di profumi. E devo dire, e anche un'altra cosa importante, noi con l'Università di Parma da 3 anni stiamo facendo delle analisi e delle comparazioni tra i nostri vini e i vini del nostro stesso territorio. Ebbene, i vini come il nostro agricoltura biologica hanno una identità, una caratteristica proprio anche dal punto di vista dei dati chimici assolutamente diversa dai vini della nostra stessa zona prodotti con sistemi tradizionali, il che vuol dire che questa agricoltura biologica dà una differenza, dà una identità. Quindi il collegamento col territorio può essere certificato anche da queste analisi che si fanno sul prodotto. Bene. Si sono individuati dei parametri molto interessanti per questo. Grazie Trabucchi, non sapevo che dietro questo Giuseppe radioascoltatore si celasse un noto produttore di vino. Bene, grazie a Giuseppe Trabucchi. Voglio tornare a Salvo Foti, gli voglio chiedere se diciamo con tutti diciamo questi nomi, biologico, biodinamico, organico, naturale, non si crea confusione nel consumatore, secondo lei, e non è il momento di fare chiarezza? Sì, è sempre il momento di fare chiarezza. Purtroppo questi nomi, secondo me, spesso vengono utilizzati come slogan per attirare al consumatore, e che alla fine si crea nella mentalità un po' di tutti come una moda, quindi la moda del biologico, la moda del biodinamico. Il discorso è che non è così semplice, non è uno slogan, non è una moda, ma è qualcosa di molto più complesso produrre e lavorare in un certo modo. E ognuno chiaramente ha i suoi modi di farlo, ha le sue ricette, le ragioni, eccetera, eccetera, però quello che io penso è che alla fine bisogna sempre andare all'essenza del vino e all'ingrediente migliore del vino, che è sempre l'onestà di chi lo produce. Quindi quando io dico faccio un vino rispetto della natura, rispetto mio, rispetto, e quindi biologico, biodinamico, a quel punto questo deve corrispondere al vero. Per corrispondere al vero significa che io devo essere sempre pronto a far vedere a chiunque lo voglia vedere qual è il mio lavoro. È il mio lavoro principale, cioè il lavoro di chi fa un vino, tra virgolette, detti naturali. Bisognerebbe spiegare un po' anche naturale, perché io personalmente mi sono accorto di fare vini biologici o naturali perché me l'hanno detto. Dice, se tu lavori in questo modo allora fai vini. Ma dico, bene, sono contento. Ma in verità io faccio una viticoltura etnea che è stata sempre fatta con l'alberello, col rispetto soprattutto delle piante e di noi stesse, perché un nostro sistema di lavoro ad alberello significa stare 200 giornate lavorative anno per ettaro. Quindi siccome io ci lavoro in mezzo con le mie persone, è chiaro che non mi voglio del male e quindi cerco di usare dei prodotti che non facciano male a me stesso e quindi rispettano me, rispettano la viticoltura, le mie uve e alla fine rispettano poi tutti i consumatori. Bene, grazie Salvo Foti, prego Radicon di rimanere ancora con noi. Sento Andrea da Roma, radioascoltatore, buongiorno Andrea. Buongiorno a lei. Senta, io stavo seguendo questo interessante dibattito culturale di oggi ed ero rimasto colpito dall'affermazione di uno dei vari esperti che era intervenuto, il quale aveva sollevato un punto che mi ha lasciato un po' spiazzato. Suggeriva di non acquistare il vino nei supermercati, perché stando a quanto dice lui, quelli lì sarebbero così ricchi di queste sostanze conservanti e quant'altro. La mia domanda è: ma dove devo andarlo a comprare il vino se non al supermercato, visto che oggi come oggi lo si acquista sempre lì? È evidente che sicuramente, cioè, ci sono vini a basso prezzo e ci sono vini a medio prezzo ad alto prezzo. Lui credo si riferisse a vini sotto una certa cifra, per cui molti pensano che sotto una certa cifra sia alquanto non pericoloso, sia, diciamo, siano meno controllati di altri. Ecco, su questo io andrei molto cauto, nel senso che una volta che sono sul supermercato, anche se costano 2-3 euro, vuol dire che sicuramente hanno subito dei controlli e continuamente possono subire dei controlli. Dove andare è molto difficile. Io credo che bisogna sempre leggere, ma anche se leggiamo l'etichetta stiamo capendo che anche le etichette del vino non sono così esaurienti a proposito, per esempio, dei solfiti. Quindi lei ha ragione, c'è una grande confusione, per quello che dico che bisogna cominciare a portare chiarezza. Quando si parla di biodinamica si fa sempre riferimento a un filosofo, al filosofo Steiner. E allora io ho chiamato a parlare di questo il professor Massimo Donà, professore ordinario di filosofia teoretica presso la Facoltà di Filosofia dell'Università Vita Salute di San Raffaele di Milano, ma anche autore di un libro sul vino. E allora, professore, io le chiedo, che rapporto c'è tra Steiner e il vino? Beh, c'è un rapporto, direi, essenziale, perché, diciamo così, per Steiner la questione del pensiero, da grande filosofo qual è stato appunto, era una questione che chiamava in causa tutti gli elementi del cosmo, della natura. Quindi Steiner è veramente un pensatore a 360 gradi, si è occupato di pedagogia, di filosofia, di agricoltura, si è occupato di tutto, di architettura, cioè un modo nuovo di pensare il mondo e quindi anche i prodotti della terra, diciamo così. Quindi ecco, qui c'è diciamo questo rapporto importante e molti si rifanno a Steiner. Radicon, prima abbiamo detto appunto c'è molta confusione in questo settore, vini biologici, abbiamo detto biodinamici, naturali, non pensi che sia venuto il momento di fare ordine? Beh, credo proprio di sì, quindi secondo me in questo momento forse si metterebbe ordine, forse non parlarne in questo momento di queste cose, perché quando il consumatore comincia a aver paura del vino naturale, biodinamico, no? Perché uno gli propone un No, per modo di Dio, perché è talmente, tutti vogliamo essere talmente forti, talmente più bravi degli altri, di dire noi facciamo così, noi facciamo così. Ecco, io evito forse in questo momento di parlare di queste cose, perché secondo me noi facciamo il vino in primis, no? Certo. Quando fai il vino e lo devi cercare di far bene, lo fai soprattutto per una convinzione e principio proprio, che poi questa cosa diventa diciamo automatica, no? Nel senso, facciamo il vino che si faceva 50-100 anni fa, e quella volta era tutto naturale, non c'era bisogno di risalire a Steiner. Steiner è molto giovane, no? Perché parliamo del 1920-24, lì insomma non ha secondo me inciso talmente forte, però ha inciso soprattutto la cosa mediatica, no? Biodinamico, certo, vuol dire qualcosa che prima non c'era. Allora tanti produttori si rifanno a questa cosa per in qualche modo propagare una filosofia che pochissimi, secondo me, sanno di cosa si tratta, e quindi lui ha scritto una filosofia di vita che non riguarda solo la viticoltura e il vino, ma riguarda il modo di essere, certo, il modo di vivere. Sì, ecco, infatti ce l'ha spiegato anche, mi sembra molto chiaramente, il professor Donà. Va bene, grazie a Stanislao Radicon. Ora abbiamo un radioascoltatore che è anche importante, perché è il presidente dei Consorzio Vini Veri, Gian Piero Bea. Buongiorno Bea. Salve, buongiorno, buon lavoro. Grazie. Poco fa Stanco diceva che non è il caso di parlarne, ma invece, ecco, trasmissione come questa, come altre iniziative che lei stesso tratta, sono secondo me interessanti, perché è proprio informare il consumatore, perché molto spesso, come già si è detto, si parla di biologico, biodinamico, organico, naturale, ma una cosa che mi permetto di dire, che spesso io dico a proposito di questo argomento, è che il consumatore spesso non sa che la grande differenza in questi termini è che il vino generato e non fatto, tra l'altro, perché noi possiamo generare, noi possiamo fare una casa, una bottiglia, un tappo, ma non possiamo generare un tappo, come non possiamo, perché così per esempio si genera il giorno, la notte, e anche la fermentazione, quando parte da sola, anche se noi l'assistiamo, non viene fatta ma viene generata. E quindi ecco perché mi piace usare questo termine, che i vini secondo il nostro lavoro vengono generati. E la grande differenza non è solo il lavoro che si svolge in vigna attraverso un lavoro di agricoltura biologica o biodinamica, ma quando queste uve straordinarie, questa materia prima straordinaria viene portata in cantina, il nostro lavoro si differenzia rispetto ad altri che non usiamo tecnologie, non usiamo solfiti, o comunque anche chi li usa non li usa in maniera esagerata, tanto da uccidere una base batterica importante che ha la sua identità, che è espressione del terroir. E continua questo lavoro senza aggiungere lieviti, senza aggiungere enzimi, senza aggiungere quindi molte sostanze che nel convenzionale vengono utilizzate. E quindi ecco la grande differenza di questo mondo che genera vini attraverso questo metodo cosiddetto naturale, è che noi insomma questo mondo non lavora soltanto in vigna con grande attenzione, ma continua anche in cantina. Bene, grazie Bea. Io torno al professor Donà. Volevo chiedere, professore, ma è molto difficile forse vivere ciò che propone il filosofo Steiner, cioè farne un proprio, diciamo, una propria religione di vita? Molto difficile, soprattutto perché viviamo in un tempo ormai quasi universalmente dominato da un approccio oggettivante, scientista, che ritiene, che tutti noi riteniamo questo, che il mondo, come dire, sia a nostra disposizione, sia un oggetto di contro a noi che possiamo proporci di trasformare a nostro piacimento. Steiner quello che ci insegna, e per cui è importante anche per chi fa il vino, per chi lavora con i prodotti della terra, ci insegna che cosa? Che in realtà prima di tutto bisogna conoscere che cosa, ma uno spettro di relazioni straordinariamente complesso, dove tutti tutto il più piccolo è legato con tutto il resto, con il macrocosmo. Il piccolo e il macro sono intimamente connessi, così come noi siamo intimamente connessi con la natura, per cui fare agire tecnicamente, e qui stiamo attenti, non bisogna pensare che il metodo naturale biodinamico sia ancora una volta astrattamente contrapposto a coloro i quali, come dire, propugnerebbero una mera artificialità, perché questo metodo implica conoscenza e sapienza nel produrre artifici, solo che la produzione artificiale, ogni produzione artificiale, deve essere svolta, condotta sulla base di una conoscenza radicale di che cosa? Delle relazioni che connettono il materiale con lo spirituale, il micro con il macro, che conoscono sostanzialmente quel dinamismo che muove ogni astratta, come dire, determinatezza, ogni astratta concettualità e la mette in movimento, così come noi stessi siamo movimento. Non è un caso che Steiner avrebbe fatto, come dire, scalpore e avrebbe avuto proseliti in molti campi, anche nelle arti. Certo, per noi, come già dicevo prima, non è facile, perché siamo ormai tutti convinti di un modo d'essere che è tantissimo distante da questa prospettiva, però proprio perché è difficile è quanto mai importante invece ricominciare ad educare le persone, come fate voi appunto, insegnare che il mondo, la natura, la nostra vita possono essere affrontate in un modo più complesso, completo, più articolato, più dinamico, perché tutto è movimento. Grazie professore, grazie. Mi spiace per Benito da Rimini che voleva parlarci di un metodo appunto per produrre i naturali e non abbiamo avuto tempo perché dobbiamo chiudere. Magari Benito sarà la prossima volta e anche Navia mi sembra da Roma, ci sentiremo prossimamente. Bene, e abbiamo chiuso questa trasmissione molto interessante. Io ringrazio in regia Filippo Aurigi, in redazione Anita Panizza, Giorgio De Luca. Vi do appuntamento domani con Riposo del Guerriero alle 11:15, ogni giorno con la pillola alle 11:05. Buon weekend da Davide Paolini.